Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, Stefano Dainese che vi parla, come d'abitudine lunedì sera, e ancora una volta una trasmissione speciale quest'oggi, ancora una volta una voce femminile come abbiamo avuto una settimana fa, due mondi musicali molto diversi, anche due generazioni diverse. La settimana scorsa avevamo Caroline Mass, che è una musicista americana, diciamo, di lunga esperienza. E questa sera abbiamo un'italiana che si nasconde un po' dietro uno pseudonimo, o meglio dietro un nome inglese, che è Mimes of Wine, ma lei si chiama Laura Loriga, e le do il benvenuto nel nostro studio questa sera. Buonasera. E, ciao. Dicevo, la generazione è chiaramente molto più recente, più giovane, però come avremo modo di approfondire con Laura, sei una che ha già una discreta esperienza, non solo italiana, di vita e musicale, quindi avrai tante cose da raccontarci sicuramente. Sì. Laura è qui per presentare il suo secondo album, il più recente, è uscito, mi pare, alla fine del 2012, giusto? Novembre 2012, sì. Quindi, insomma, sei ancora di nuovo. Si intitola Memories for the Unseen e esce per la Urtovox, una delle etichette più importanti dell'indipendente, del mondo della musica indipendente italiana. Però io direi intanto di ascoltarci subito un estratto dall'album, così vi farete anche voi un'idea di quello che fa Laura. E poi, Laura, io parlo da te sempre al singolare, ma in realtà Mimes of Wine devo considerare una band? Sì, direi di sì. Ok, decisamente. Poi dopo ne parliamo meglio, però sì. Va bene, allora sentiamo quello che fanno i Mimes of Wine con questo brano che si intitola Esther. Buon ascolto a tutti e benvenuti a Rockwave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questo brano si intitolava Esther e Laura mi stava dicendo qua in studio che questo è un brano in cui, come avete sentito, il violoncello aveva una parte molto importante ed era suonato da una ragazza americana, una delle ospiti di questo disco, che è un lavoro italo-americano, diciamo, come te ormai. Adottati. Siamo tutti... Sì, la maggior parte dei musicisti, quasi tutti, sono italiani. Però il violoncello è importantissimo e lei sì, Ellen Belangi ha fatto un lavoro enorme, bellissimo. Ma il disco è stato realizzato tutto in Italia? È stato registrato tutto in Italia e poi mixato e masterizzato a Los Angeles invece. Sì, capisco. Diciamo è il secondo disco della band, tu però vivi, se ho ben capito, più a Los Angeles che in Italia. Sì, di solito sì, sono là da 5 anni. E gli altri musicisti della band invece? Sono qui. Sono qui, è molto comodo dal punto di vista logistico. Fantastico. Per provare anche... Fantastico, proprio. È una cosa veramente strana questa, ma tu a Los Angeles suoni anche con altri musicisti? Sì, sì, anche se non c'è cioè una cosa più recente, diciamo. Mams of Wine di base è cominciato come progetto solista mio, perciò piano e voce li ho sempre scritti io. E prima avevo una formazione a Los Angeles e poi dopo sono tornata in Italia per un po', abbiamo messo insieme quello che è il Mams of Wine di adesso, poi sono tornata a vivere là negli ultimi anni e le cose sono un po' complicate, però il modo in cui abbiamo lavorato è che io facevo dei pezzi, poi li mandavo, loro lavoravano sulle loro parti, me li rimandavano e così via. Sì, adesso è una cosa che adesso con le tecnologie attuali è decisamente fattibile, insomma, sì. Lo fanno un po' tutti. Qualche anno fa sarebbe stato una discreta rompicapo, diciamo. Sì. Ma come mai hai deciso da Bologna di spostarti a Los Angeles? Motivi personali, di lavoro? No, un po' tutto direi. Ormai è passato un sacco di tempo, non me lo ricordo neanche quasi più perché... No, in realtà è stata la musica la prima cosa. La maggior parte delle cose che ascoltavo e così veniva da là. Mi sono trovata a poterci andare per studio al tempo, ormai 8 anni fa la prima volta. E poi sono... Posso chiederti cosa studiavi a Los Angeles? Sono curioso. Prima psicologia, poi musica, le due. Ah. Sì. Quindi, le due cose sono poi lavorano insieme, nel senso che fai anche musicoterapia o cosa del genere? Perché no. Abbiamo avuto qui un paio di ospiti che dopo aver studiato psicologia, essendo musicisti, usavano la musica per motivi terapeutici. Per cui, quando mi hai detto questa cosa, ho pensato che... No, sono rimaste separate per il momento le due cose. Ok. Tu sei anche molto vicina ai Giardini di Miró, che sono uno dei gruppi più importanti della musica indipendente italiana. Esattamente cosa fai con loro? Canto i cori nella maggior parte dei pezzi, canto da sola un paio di brani e adesso vedremo. Quindi fai parte della formazione ufficialmente, si può dire... E oddio, sono stata ospite negli ultimi mesi, poi vedremo, sarebbe bellissimo continuare a collaborare, spero di sì. Anche perché so che loro lavorano anche abbastanza all'estero, giusto? Penso sì, abbastanza. Avevo letto appunto che avevano distribuzione all'estero e cose del genere, che per un gruppo italiano non è una cosa così normale, ecco. Allora, Laura è qui con la sua tastiera, perché appunto, come ha detto prima, il progetto nasce intorno a voce e pianoforte, quindi suonerà per noi dal vivo con questa tastiera. Se puoi accomodarti, va bene. Si sposta alla postazione di lavoro, diciamo, però devi anche dirmi che brano suonerai, perché non so il titolo. Che è un brano naturalmente dell'ultimo disco, sì. Che vi ricordo, si intitola Memories for the Unseen. Allora, dal vivo, Mimes of Wine su Blu Radio Veneto. Thank you. So excuse me if I ask what thoughts did you have? Carry away under the moon, blown in full tide. I've held a thousand hands, I've kissed a thousand lips. My memory goes back to the wish of the darkest sky, the yellow flowers we. Questa era Yellow Flowers, Mimes of Wine, ovvero Laura Loriga dal vivo, qui nei nostri studi, un pezzo veramente affascinante. E avete sentito anche appunto la voce che si libra. E volevo chiederti, vedendoti suonare così, mi è venuto in mente, tu hai una formazione di conservatorio? Non proprio. Tanti anni di lezioni private, però sì, quasi. Solo non l'ho mai finito. Ok, però insomma si vede un po' l'imprinting. Sì. Hai suonato anche musica classica, insomma, sì, per molti anni. Ecco. Si nota, insomma, dallo stile pianistico. A parte, volevo chiederti della copertina del disco. Ok. Che sì, c'è un tuo ritratto un po' inquietante, devo dire, in stile di Egon Schiele, ho detto, un po'... È un complimento. Sì, beh, sicuramente hai detto che è un tuo amico quello che ha, sì, che ha fatto, mostra un notevole talento, ma anche forse un po' di cattiveria. Nei miei confronti. Sì, non ha fatto un ritratto, come dire, agiografico, ha voluto proprio scavare... Sì. Un po' angosciante, se posso dire. Sì, sì. In realtà l'originale è un po' meno angosciante di come non è venuto stampato, però va bene così. Ci abbiamo pensato un sacco e alla fine ci siamo poi trovati d'accordo che se quello era quello che era venuto fuori, ce lo potevamo anche tenere. Dai. Va bene così. Come si chiama? Lui? Sì. Brett Erzing. Erzinger, non so come dirlo. Ah, quindi non è italiano? No, è di San Diego. San Diego, bel posto. E tu a Los Angeles adesso non studi più, immagino? No. E quindi fai solo a musicista? No, lavoro anche con i bimbi con autismo, in realtà. Ah, ok, questi quindi sono i frutti del tuo... Esatto. Del tuo lavoro... Di prima. Di prima, sì, insomma, di psicologa. Esatto, queste due cose adesso. Una cosa molto interessante, ma, e usi anche la musica con questi bambini per comunicare? Ogni tanto, ma di solito non tanto, no. Non tanto. Vabbè, questo è tutto un altro mondo che ha poco a che fare con il nostro passatempo musicale qui, insomma. Sì, però è sempre comunicazione, perciò. Vabbè, questo è vero, sì. Poi immagino, insomma, che sì, che riuscire a ottenere dei risultati di comunicazione con questi bambini, da un certo punto di vista può essere l'equivalente di ottenere un feedback da parte di un pubblico che ti sta guardando mentre suoni. Decisamente sì, sono più duri loro di solito. Sì. complimenti. A questo proposito, immagino che tu abbia suonato spesso negli Stati Uniti e anche in Italia. Differenze tra i pubblici, tra le audience, anzi usiamo il termine. Io credo che, non lo so, dipende anche lì tanto, perché anche all'interno della stessa Los Angeles, a seconda di dove suoni, il pubblico è molto diverso. Se vai in posti dove è molto, non lo so, di moda suonare, hai un tipo di audience. Se invece vai davanti a un'audience più rilassata, è tutto molto diverso. Direi che in generale differenze poi così fondamentali non ce ne sono. Forse un po' più di abitudine all'ascolto, nel senso, magari è più difficile suonare davanti a gente che parla. Qui mi è capitato di... in realtà neanche troppo qua, ma più qua che là. Ma a parte questo direi che... Sì, beh, con la musica che fai e che fate, diciamo, sì, insomma, se si è in un ambiente rumoroso sicuramente essere molto spiacevole. Non siete un gruppo rock blues che al limite... ci alziamo un po' i Marshall e vediamo chi è più duro. Esatto. Sì, è un po' dura. Il batterista direi che è quello che si difende di più tra di noi. Picchia di più e in qualche modo ce la facciamo. Adesso ci ascoltiamo un altro estratto dall'album. Si tratta di Silver Steps. Vuoi dirci qualcosa riguardo a questo pezzo? Ma è il più vecchio di tutti, il primo che... ho scritto, parlare, cioè spiegare di cosa parla è un po' complicato, perché tra tutti è quello che in realtà è meno definito anche per me, però è una voce che parla a qualcun altro per farti sentire di nuovo. Ok, allora ci ascoltiamo questa Silver Steps. The moon. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E in questa Silver Steps, parlando di conservatorio, sembra quasi una cantante lirica. Hai preso anche lezioni di canto o sei, no, sei autodidatta per quello? Abbastanza autodidatta. Ho qualche lezione ogni tanto da un paio di persone molto brave, cantanti liriche tutte e due oltretutto. Immagino. Una siciliana, una brasiliana, perciò belle diverse una dall'altra. Sto pensando che conosco una cantante lirica di Bologna, ecco. Evidentemente una brasiliana. Una brasiliana, sì, a Los Angeles. Ah, ok, abbastanza. Allora, visto che qui ci sei solo tu, quindi poi sei anche sulla copertina del disco, insomma, cerchiamo di non tralasciare, di non scordare gli altri componenti dei, sì, Miles of Wine, che sono, tu suoni pianoforte, voce e l'organo, okay. Sì. Luca Guglielmino alla chitarra, elettrica e acustica, Stefano Michelotti suona davvero tutta questa roba qua. Sì, ebbene sì. Vabbè, allora, fisarmonica, lo Shruti Box. Che... è un organetto indiano. Mai sentito nominare il Santor, che anche questo è molto diffuso. Santor, sì, è un... non sai neanche tu che cos'è. No, è tipo un salterio persiano. Un salterio persiano, sì. Però. Poi c'è l'Ardigardi, che sarebbe la gironda. Sì. Questo, uno lo so, la kalimba africana. Il Duduk, altra cosa abbastanza misteriosa. Il Duduk è un flauto, è del Sahara, è bellissimo, ah, un suono troppo bello. Il nome sembra più un cartone animato. E poi il sax di bambù, anche questo è interessante. È un piccolissimo sax di bambù, è quello che è. Ma è, come... è un mini, sembra un flauto se lo vedi, però suona come un micro sax. È fatto di bambù. Ed è fatto di legno, non è forse, cioè, lui dice che è bambù, probabilmente è bambù, si dice così. Probabilmente è anche più economico rispetto... poi c'è l'armonica, alleluia, è una cosa normale, e le castagnole della Rajasthan. Le... come si chiamano? Sono tipo delle nacchere. Nacchere. C'è una cosa che non c'è scritta che è la più strana di tutte, allora. Il Sammeo Flute. No, quello anche un po' strano. Il Dambau. È uno strumento vietnamita monocorde che sembra tipo un theremin, però c'è la corda veramente. E una sola ne ha. Una sola. Però quello è per me quello che... quindi questo Stefano va in giro per il mondo a raccattare qualsiasi cosa che suoni che gli capita per le mani. Interessante. Poi ce le portiamo tutte in giro, soprattutto, che è praticissimo. Poi c'è Matteo Zucconi al contrabbasso, a proposito di cose comode da trasportare. Infatti siamo proprio agili. Effetti e la chitarra, cigar box guitar, che sì, la chitarra fatta con la scatola di sigari, mm-hmm, che usavano i bluesmen, i più poveri, diciamo, esatto, all'inizio del Novecento, quelli che non potevano comprarsi una chitarra vera e se la facevano con la scatola. Riccardo Frisari modestamente suona batterie e percussioni. Sì, poverino lui. E poi abbiamo citato prima Helen Belangi al violoncello. Sì. Che però fa parte della band o è stata solo un ospite? Fa parte della mia band quando siamo in California. Lei sì, sempre con me. E poi le parti di violoncello le ha scritte tutte lei. Questo è il fatto che tutti quelli che hanno suonato hanno fatto le loro parti. Io ho fatto magari un po' da direttore d'orchestra dicendo dei sì e dei no. Però in generale non ho assolutamente scritto le loro cose. Partiture, arrangiamenti. Un altro che forse non c'è scritto lì, molto importante, è stato il trombettista Tiziano Bianchi. Tiziano Bianchi, sì, perché è citato come altri musicisti, non so qui come hanno... Sì, allora, sì, sì. E appunto la tromba, il flugelhorn, sì, e poi ci sono altri ospiti, sì, alle voci soprattutto, vedo. Sì. E Luca Cristofoli che suona il charango. Non vi fate mancare niente, cioè, in quanto mancano solo gli strumenti di Star Trek e poi gli altri li avete provati tutti. Comunque è molto interessante e dal vivo, quindi voi viaggiate con un furgone di giocattoli di 25 metri. Sì, no, sì, sì, esatto. E, ecco, a questo proposito, visto che siamo in argomento, avete in programma delle date dal vivo prossimamente? Sì, sì, sì. Aspetta, sto domanda difficile, la devo preparare meglio. In Veneto in realtà abbiamo scoperto ieri che verremo a Venezia il 16 marzo, sabato. Saremo in un posto che si chiama Metri Cubi, a Venezia. A Venezia Venezia. Venezia, proprio, che è bellissima questa cosa. Okay, vogliamo anche un video di voi che trasportate gli strumenti fino al locale a questo punto. Io no, io non lo voglio. E poi saremo, fammi pensare, siamo in giro un po' dappertutto, facciamo un giro giù a Napoli, Benevento, Salerno, andiamo a Milano questa settimana, tra due giorni, poi io ritornerò a Milano a fare una cosa da sola, poi ci sono un po' di date con i giardini, sì, siamo decisamente impegnati, sì, per fortuna. Sì, beh, stavo per dirlo appunto, per fortuna. Eventualmente per le informazioni su queste date si può andare nel sito della Urtovox o nel vostro? Ma forse nel nostro è un po' più comodo, è www.mimesofwine.com. Ok, poi ci sarà anche il link sul nostro sito nello spazio dedicato a questa serata. Ricordo anche che ci sarà disponibile prossimamente poi il podcast di questa trasmissione. Adesso ti chiedo di riacquistare la posizione eretta per andare dietro alla tastiera. E allora Laura Loriga ci suonerà un altro brano. E devo chiederti di presentarlo perché io non so che cos'è. Si chiama Auxilio ed è anche questo, come gli altri, un pezzo che parla di un ritorno. Auxilio, sì. Dopo se te lo spiego adesso, se lo spiego dopo. Quando vuoi, è lo stesso. Magari dopo, dai. Intanto lo ascoltiamo. Between the Questa era Auxilio, sempre un brano contenuto in Memories for the Unseen dei Mumps of Wine. L'abbiamo sentito qui dal vivo, dalla voce di Laura Loriga, che è qui il nostro ospite. Sono le 23:03 minuti e siete sempre sintonizzati su Blu Radio Veneto. Questo è Rockwave Live, con ancora una volta un grande ospite qui con noi a intrattenerci con la musica dal vivo, che è la nostra grande gioia. Sì. Stavo notando una cosa, tu a Los Angeles hai un altro di queste tastiere? No. Te la porti? forse rimarrà qua, però dopo. Sto valutando questa possibilità. Sì, non so quale sia il costo di uno strumento, ma penso che portarlo avanti e indietro in aereo sia abbastanza anche, diciamo, sì, un po' complicato logisticamente, oltre che costoso. Fra l'altro, insomma, ha l'aria di pesare più di te. Infatti penso che la lascerò alla band per il momento. Tanto a Los Angeles ne trovi un'altra, insomma. Sì. Ci sarà qualche negozio di strumenti. Mi andala anche questa, guarda. Costano anche di meno, perciò perfetto. Ci direi che è un'ottima idea. Dicevi che volevi dirci qualcosa riguardo a questo brano Auxilio? Ma sì, cioè viene... perché... racconto sempre questa cosa, che così dà un po' di senso a tutto. Tutti i 12 brani parlano tutti e 12 di ritorni. Ogni ritorno però è in una maniera diversa. In questo caso è la protagonista, è appunto Auxilio, che è la protagonista di un libro di Roberto Bolaño, che era uno scrittore cileno bravissimo. Ah sì, Bolaño. Esatto. È il libro Amuleto e parla a lei. Quindi Auxilio è un nome femminile, che uno al momento non ci avevo pensato, è un po' strano come nome. Sì, penso di sì. Una volta si sarebbe definito un disco concept, una cosa del genere. Ah, sì, forse, cioè, però... C'è un filo conduttore, però sì, diciamo che c'è. È una cosa che dici tu, ma non è esplicita nel disco, non c'è scritto da nessuna parte. Dentro no. Okay, quindi è un concept segreto, una cosa un po'... una specie di trucchetto. Sì, magari se uno legge tutti i testi se ne accorge che c'è qualcosa. Però, sì, non ci penso neanch'io, onestamente, tutte le volte. Adesso qui c'è una cosa che mi fa un po' ridere. C'è l'unico brano che ha il titolo italiano, L'Incantatore, ha un coro che è tutto di americani. Cioè, è il brano in cui appaiono, sono mille. Tre coristi, che però sono, a parte i fratelli Erzinger, uno è quello che ha fatto anche la copertina. Ah ok, il famoso Brett Erzinger. Sì. Che suona anche l'armonica oltre a fare il pittore. Sì. Mitchell Erzinger e Penelope Fortier. Penelope è una bravissima cantautrice che è a Los Angeles anche lei. E quindi li hai chiamati per fare i cori e gli hai spiegato che l'incantatore in italiano vuol dire charmer o sì, qualcosa del genere. Esatto, sì. E anche questo pezzo qua viene da un altro scrittore invece, è Julio Cortázar, che non conosco, ammetto. Un argentino e niente, era un uomo molto serio e molto buffo allo stesso tempo, in questo caso è più nella chiave buffa che l'abbiamo preso. E sì, ci stava di brutto di avere questi qui. E poi Penelope ci aiuta a mantenere una cosa un po' più seria, fatta un po' bene, perché lei è molto intonata, ha fatto tutte le parti che di base, sì, e invece gli altri sono un po' più coperti. Ah, ok. Io so dove sono quando lo sento. Ah, va bene, va bene, allora adesso chiaramente massima curiosità, dobbiamo assolutamente ascoltare questo brano che si intitola L'Incantatore. Thank you. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E allora questo era l'incantatore, dove usavi la voce in maniera un po', come dire, originale, dissonante quasi. Sì. È nata così la canzone o hai provato a cantarla in altre maniere prima di decidere che questa era la sua strada? No, è proprio... proprio venuta così. Prima la parte in mezzo, che è quella un po' più semplice, e poi si vede che una mattina mi sono svegliata e ci stava quella cosa lì. E poi inizia in una tonalità e finisce in un'altra, perciò forse anche quello la fa sembrare ancora più storta di quello che è, se vuoi. Va storta. Giù di mezzo tono, però è anche l'ultima scritta di tutte. Sì, sì, fra l'altro notavo il... avete cominciato a lavorare al disco nel 2010, quindi ci sono voluti 2 anni per farlo. Dovuto sì. alla distanza o ci sono altri motivi? Sì, è più tipo forse 1 anno e mezzo, perché ho iniziato proprio a fine 2010, tutto 2011. Sì, ho calcolato la pubblicazione del disco, in realtà il disco era finito qualche mese prima, chiaramente. Sì, sì, abbiamo registrato a febbraio, perciò più o meno... 1 annetto e mezzo, dai. No, perché io sono lenta, sono lentissima. Beata, sincerità. È vero, ci metto una vita. Mi vado proprio al dettaglio, così poi forse il fatto anche che sono lasciata da sola alla fine per molto del tempo, perciò non c'è nessuno che mi dice, oh, guarda che lo devi finire tra una settimana. Quindi sei un po' pignola, un po' maniacale. Decisamente, sì. Però lo dici, per cui va bene così, insomma. No? Ormai me ne devo rendere conto. qui vedo nei riferimenti che hanno... Io ho qui una presentazione del disco a cura appunto dell'etichetta, la Urtovox. Citano i Devix, Cat Power, Elisa Germano e i Dead Can Dance. Ecco... io quando ho sentito il disco non avevo ancora letto questo, ma erano venuti in mente per primi i Dead Can Dance. Che poi in realtà, se devo dire, il disco mi ha fatto un effetto strano, perché la prima volta che l'ho ascoltato mi è sembrato un disco molto quasi dark, appunto legato a certe cose della fuori di una volta. E poi riascoltandolo addirittura pensavo di aver messo su un altro disco per un momento, perché dopo la seconda canzone ho pensato, ma io me lo ricordavo più oscuro sto disco, invece forse perché l'ho ascoltato in un momento diverso della giornata, ero io, mi è sembrato molto più solare. È una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Sembra che sia un po' prismatico, nel senso che a seconda di come lo guardi può essere interpretato in diverse maniere. Ma i Dead Can Dance sono uno dei tuoi riferimenti o è stata un'uscita della Press Agent? Sì, è stata un'uscita loro, che per me è un grande complimento, come in realtà è un complimento quello che mi hai fatto tu, bellissimo. Che ci hai fatto tu, perché sì, è decisamente, probabilmente abbiamo entrambe queste anime, sia magari è proprio, forse è proprio così, forse a fronte una cosa più scura e poi in realtà no. Infatti, cioè, questo le forse è l'apparenza, perché magari anche per via del canto un po' in alcuni momenti è enfatico, così sembra quasi che si voglia creare questa atmosfera che erano appunto tipiche soprattutto dei primi tempi del Dead Can Dance, degli altri gruppi della 4AD. Però poi anche nel modo in cui cantavi in questo pezzo c'era un che di quasi da ragazzina, era un po' giocoso anche, poteva sembrare. Lo è. E un altro riferimento che a me è venuto in mente è Kate Bush, che ascoltavo da bimba, tipo mio papà me l'ha messa in macchina per anni e anni. Ah, ok. Un'altra bravissima. Non sono esattamente le persone, nessuna di queste sono veramente le cantanti che io ho ascoltato tanto, tranne forse Cat Power, le prime cose, però, per ormai diversi anni. Mm-hmm. Però sono tutti paragoni meravigliosi, dal primo all'ultimo. Sì, ma evidentemente Kate Bush, se l'hai ascoltata da bambina, l'imprinting, insomma, sei psicologa, quindi non devo certo spiegartelo io. Ti sarà rimasta dentro nel subconscio. Poi vabbè, c'è anche il fatto che probabilmente c'è una questione fisica di vicinanza dal punto di vista vocale in alcune note, perché io, anche se volessi cantare come Kate Bush, non è che abbia molte possibilità di farlo, insomma. Allora, direi che potresti suonarci qualcos'altro, posso chiedertelo? Sì. Ok, sì, allora mi riavvicino. Ti sposti, non è che sia un gran viaggio, lo dico per i nostri ascoltatori, lo studio non è particolarmente... dici il pezzo che ci suonerai? Charade? Come scusa. Sì, non avevo proprio capito. Anche questo è un brano tratto dall'ultimo disco. All in a row, the bitter in. All in a row, it's fast as I. game I had, in this game I had, your turn comes with a turn. In this game I had, in this game I had, your turn comes with a... Questa era Charade. era la francese Charade, e prima parlavamo appunto di giochi, di, anche questo insomma è un gioco, la charada. Tu hai detto appunto che sei pignola, che hai bisogno di molto tempo eccetera, quindi deduco che non sei uno di quelli che hanno, che so, 40 canzoni e dopo dice, prendo quelle, scelgo quelle del disco. Sei una di quelle che quello che scrive mette sul disco tutto? Succede un po' una roba strana. Avevo tipo qualcosa come, non so, 1000 clip forse. Ah, ma spezzoni però. Sì, non spezzoni. Canzoni. E poi me ne, cioè, suono improvviso e poi dopo me le vado a risentire dopo. Però una volta che scelgo quelle che mi piacciono, sì. Perciò passo da un numero altissimo di roba a pochissimo. Sì. Cioè quello che finisco veramente è quello che mi piace di più, sì. Outtakes ce ne sono un po'. Una poi mi è venuta per me molto bene, l'ha fatta Giuliano Dottori degli Amor Fu, mi ha aiutato ad arrangiarle, anzi l'ha arrangiata tutta lui quella, facendo un bellissimo lavoro. Però di outtakes ne abbiamo 3 o 4 finite, pochissimo. E dal vivo fate solo pezzi vostri o fate anche qualche cover? No, solo pezzi vostri. Solo pezzi vostri. Sì. E prima, parlando delle riferimenti di altri, ad altre voci eccetera, hai detto che apprezzi tutti questi nomi, però nessuno di questi la consideri fra i tuoi nomi tutelari. A questo punto ce li devi dire, però, quelli che sono i tuoi punti di riferimento, chiamiamo così. Ma sono Cat Power davvero rimane sicuramente una di loro. Nico sicuro, e che vocalmente è abbastanza all'opposto rispetto a te. Sì, perché ero decisamente più giù. Vabbè, rimangono voci come, non so, Billie Holiday, così, che veramente ho ascoltato tanto. Sybil Bayer è qualcuno che era una cantautrice tedesca. Non ammetto l'ignoranza. Non... Vabbè, ma sì, ma ha fatto pochissime cose, però veramente una voce per me bellissima. È molto particolare il modo di scrivere. Chitarra e voce basta, ma molto complesso tutto, e però risultava semplicissimo. E ha un cuore che per me è veramente è ancora attiva? No, non so neanche se è più viva, onestamente. Wim Wenders aveva fatto una cosa negli anni 70, un piccolissimo documentario, era parte di un film di Wim Wenders in realtà. E lei un sacco, beh, Suzy and the Banshees, sicuramente un'altra che... sì. Beh, nell'incantatore, adesso che ci penso, il riferimento a Suzy and the Banshees ci stava abbastanza. È di più un Banshee che Suzy, sì, insomma. Sì. Magari questa non bisogna spiegarla, per chi non sapesse, i Banshees sono degli spettri praticamente, appunto. Suzy Sioux, quando fece la sua band ormai un po' di anni fa, 76, si chiamò appunto Suzy and the Banshees, appunto per quello, il modo che avevi di urlare poteva ricordare quelle leggende nordiche su questi spettri terrificanti dovrebbero essere. Tu però non risultavi particolarmente spaventosa. Grazie, appunto, più ilare la cosa. Sono tutti riferimenti un po' lontani dal punto di vista generazionale, però. Sì, sì, beh, cioè, ci sta. Vabbè, a parte Cat Power, che avrà forse qualche anno più di te, gli altri poi sono tutte... potrebbero tutte essere tua madre o mia tua nonna. Sì. vabbè, va così. Ma mi sa che anche con i corrispettivi uomini, cioè riferimenti maschili, siamo la stessa cosa qua. Beh, facci, un po' gusto da nonno, però. Facci qualche nome, Leonard Cohen. Sì, per esempio, è decisamente uno di loro. So, Townes Van Zandt è un altro. Grande Townes Van Zandt. Mi mettete in difficoltà, io qua non mi ero preparato una lista, ci devo pensare, la devo preparare invece. Moondog, però non canta. Moondog no. Non canta poco, però è un altro che mi è piaciuto tanto. Jeff Buckley sì, è uno di quelli con cui sono cresciuto. Infatti anche lì qualche qualche riferimento così mi veniva in mente, anche poi nel modo, quando hai detto che sei molto maniacale, stai dietro a un pezzo per tanto tempo, lui anche lui sì, era famoso per quello, praticamente i pezzi che ha messo su Grace erano tutti i pezzi che aveva scritto fino a quel momento, pare. Ci aveva impiegato 5 anni. Ha fatto un buon lavoro. Ah beh, sicuramente, sicuramente. Ci ascoltiamo un altro brano da Memories for the Unseen, dei Mimes of Wine. Si tratta di Altars of Rain, gli altari di pioggia. Col Django. Col Django. Così sentiremo il Django. Ah, Charango, scusate perché ho in mente Tarantino io. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era Altars of Rain. E mi sono appena salvato perché non ho citato Tori Amos. In effetti non mi era neanche venuta in mente, ne stavamo parlando adesso. Appunto, pare che Laura sia perseguitata dal paragone con Tori Amos. Francamente, appunto, mi ricordi molto più Cat Power, sinceramente, anche vocalmente. C'è il fatto che sì, che suoni il pianoforte e canti, per cui lei, Tori Amos, è diventata un po' il simbolo delle ragazze col pianoforte. Sì. Anche tu ne suoni due insieme qualche volta o no? Ma mi piacerebbe averne. Magari quando torno il prossimo lo porto anche questo. Anche quello ci posso provare. Ecco, Agostino, il nostro regista, ha messo su. No, magari suonare così, davvero. No, devo dire, queste cose qua erano bellissime. Io l'ho vista dal vivo e colpisce parecchio gli spettatori quando suona contemporaneamente organo e pianoforte e canta. Cioè, è una cosa un po' da piovra, ecco. Sicuramente è un grande talento. Una cosa, non hai citato nessun musicista dell'ambito del folk. In certi momenti del tuo disco io sento dei riferimenti al folk anche tradizionale, forse nel modo di cantare o nel modo di comporre. È solo una cosa casuale? No, sicuramente no, in realtà. Hai ascoltato anche, diciamo, cose di quel mondo? Sì, e in particolare le persone con cui vivo a Los Angeles hanno questa collezione incredibile di dischi, di cui un sacco sono folk e di artisti completamente sconosciuti, cioè che tipo hanno fatto un disco e poi sono andati a vivere nei boschi, non sono tornati mai più. e me ne sono ascoltati tanti. Uno che mi è piaciuto un sacco si chiama Terry Allen. Beh, sì. Sì, questo non è andato nei boschi. No. Rimasto fuori. Però sai che i nomi in questo momento, perché sono passati un po' di mesi da quando... Comunque si tratta di folk americano più che britannico. Sì, è vero, è vero. Però non mi vengono i nomi, la cosa che mi vengono in mente le voci, mi vengono in mente anche i pezzi, ma non mi vengono... Ma se vuoi cantarci un pezzo... No, no, è che appunto ci può dire che in maniera indiretta il folk sia dietro a tutto questo genere di musica. Cioè, nel tuo caso poi ci sentono anche le influenze classiche, soprattutto per come suona il pianoforte. Mi è venuto in mente un nome. Spara. Simon Finn, si chiamava lui. Simon Finn. Finn. Chiederemo... Era uno che aveva un pezzo da 10 minuti, si chiamava Gerusalem, bellissimo. Che è Giampaolo, ti ha fatto segno che lo conosce? Ha detto sì. Ecco, perché esiste, abbiamo qui in studio il nostro consulente Giampaolo. Appunto, se lui diceva non lo conosceva, vuol dire che te l'hai reinventato. è andata bene, Simon Finn. Però anche Nick Drake, per dire, molto più ok, famoso. Sì, beh, allora questo è che ecco, nel tuo caso, appunto, tutti citano Tori Amos. Ormai Nick Drake viene buttato dentro. Adesso sono un po' piantata. C'è stato un periodo che le riviste musicali italiane non riuscivano a citare altro che Nick Drake. Sembrava che ogni mese uscissero 10 dischi ispirati a Nick Drake, che era diventato una barzelletta, insomma. Questo al di là della grandezza straordinaria del musicista, insomma. Però appunto si generalizza un po' troppo. È la sindrome di Tori Amos che ti ha colpito, è la stessa, insomma. Cioè, andava un po' di moda. Ragazza, sì, col pianoforte, quindi Tori Amos. Tra l'altro, pensavo a una cosa, tu quando sei a Los Angeles la gente non pensa che tu sia italiana. In generale nella vita si accorgono subito che non sono di lì. Intanto parlo con le mani. Ah, vabbè, no, mi sgamano subito. Però sei bionda, insomma, hai più un'aria da americana che da, sì, sì, che da italiana. Cioè, finché non apro bocca va benissimo. Dopo si capisce. L'accento lo riconoscono, sì. Tutti francesi pensano che io sia sempre. Non mi becco mai degli italiani. Mai. Questo è strano perché i francesi hanno un accento quando parlano in inglese pesantissimo, almeno il 99% di loro. Vabbè. Un po' penso, sì. Ok, stiamo un po' divagando. Sono le 23:33 minuti e direi che potrei chiederti di suonarci qualcos'altro. Sì, posso fare un brano dal primo disco magari? Sì, magari dici due cose anche su questo disco, visto che non lo abbiamo qui in studio, e così dici un po' le differenze fra quello e l'ultimo. Allora, il primo è uscito a fine 2009 e raccoglieva le cose che ho scritto in 3 anni, perciò un lasso di tempo molto più lungo, e la differenza principale direi che nel primo veramente ho fatto praticamente tutto io, e dopo abbiamo fatto delle sovraincisioni con Enzo Cimino, personaggio importantissimo che non avevo citato fino adesso, che è quello che ha registrato entrambi i dischi. E invece nel secondo abbiamo fatto tutto in presa diretta e lavorando proprio come band, con musicisti diversi anche. E basta, direi che la cosa principale sia questa. E poi molto più pianoforte e molto meno voce c'era, secondo me, nel primo. A sto giro ho usato la voce in maniera molto più... Perché ti senti più sicura forse con l'esperienza, o è stata una cosa che è successa e basta? È successa, è venuta naturale, sì. Forse il mio, perché forse il mio strumento vero è poi forse quasi più quello. No, non lo so, non so cosa dire, è tardi. Vado a suonare. Vai a suonare. Bene, allora vi ricordo, abbiamo Laura Loriga qui in studio per i Mimes of Wine, ci presenterà questo brano dal titolo sconosciuto. Kay. Dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Sentito allora questo brano, dove in effetti la parte strumentale era preponderante, quindi potrebbe essere un buon esempio del suono del primo disco, che era Apocalypse Serin. Sì, sì. E stavo leggendo che tu l'hai descritto così in poche parole, qui abbiamo il comunicato stampa che come al solito è molto più, come si può dire, lavorato, visto che ce l'ho qua. Il carattere centrale del progetto viene definito nella sua base. Si tratta di 10 brani in cui voce e piano portano melodie e armonie attraverso giochi di modulazioni dilatate e scure e cambi ritmici che rimandano nelle strutture alla musica classica e al jazz, in atmosfere create da suoni di archi, campane, fiati, e-bows, trombe, sciruti box e rumori puri. Cosa dici? Ok. Gli diamo un buon voto? Sì, dai. E invece... E qua invece fanno il paragone con il disco che sei venuto a presentarci, insomma, quello nuovo, Memories from the Unseen, e dicono: le sonorità di questo lavoro sono diverse dalle precedenti, il risultato è più potente, asciutto e diretto, meno sognante. La formazione stabile che la band ha raggiunto ha permesso un tipo di lavoro nuovo, come dicevi tu, in cui la ricerca di un equilibrio degli estremi verso cui tendere non verte più solo intorno a Laura, ma a tutti i componenti. Allora, questo è, diciamo, quello che hai detto anche tu. E che il disco sia meno sognante, io non posso fare un paragone perché non ho sentito il primo. Questo nuovo mi sembra comunque in parecchi momenti un disco che può essere definito sognante. Sì, anche secondo me è solo sognante in un modo diverso. Magari un po' più definito. L'altro aveva delle strutture molto più dilatate, dei cambi più azzardati, anche se già ancora ce n'è. Però là ce n'erano di più. E appunto il piano era protagonista, secondo me, molto di più rispetto ad adesso. E questo permetteva dei giri di cose un po' più, come dire, convoluti. Mi viene in mente, non so se è un altro riferimento, forse non l'hai neanche mai sentito, il primo disco dei Waterboys. Che si trova The Water Boys, appunto. E, no, mi è venuto in mente perché in realtà i Water Boys sono un gruppo che è girato sempre intorno a Mike Scott, che è il leader. E nel primo disco in particolare, è un disco di voce e pianoforte, che però uno leggeva The Water Boys, pensava fosse una band, ma in realtà ascoltando il disco si sente che è un disco meraviglioso, fra l'altro, te lo consiglio caldamente perché proprio ascoltando questo pezzo mi è venuto in mente che ci sono delle vicinanze musicali. E, il prossimo brano che ci ascoltiamo si intitola Aube, che mi hai detto significa alba in francese. Lo dico appunto, me l'ha appena spiegato Laura, non voglio far sfoggio di una cultura che non possiedo, un po' il francese lo mastico, ma non sapevo che alba si dicesse aube. E come mai hai dato un titolo in francese a questo brano? Perché mi vedevo sicuramente un'alba. Dawn, sunrise, boh, non è che mi piacessero tantissimo come suoni, un po' usati. Sì. Molto usati, mi piaceva quella parola lì e... C'è stato. Proprio a livello di suono e di immagini. Benissimo, allora ci ascoltiamo questa Aube. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era Ob, siamo ancora qui nello studio di Blu Radio Veneto con Rock Wave Live, con Laura Loriga che è qui con noi ancora per un po' meno di un quarto d'ora. Avremo ancora due brani dal vivo e un ultimo pezzo dal disco per completare questa serata molto piacevole, devo dire. Laura si fa... Sembra che a te dispiace essere spontanea, cioè sei spontanea e poi te ne penti quasi, invece è una cosa bellissima, secondo me, cioè, secondo tutti è una cosa bellissima. Ogni tanto un po' dei lati. No, perché insomma, molte persone che si esibiscono appunto come cantante o comunque come artista tendono a creare un personaggio, quindi si vede che cercano di rientrare dentro dei parametri, invece tu sei molto, molto spontanea, la trovo una cosa... bellissima, insomma. Meglio così. Ti ringraziamo per questo. Allora adesso ci suonerai un brano che ha un titolo un po' strano, Teeth Maker, sì. Che fra l'altro in italiano a tradurlo viene una cosa orribile, tipo l'odontotecnico. Ma non esiste, cioè non è stata inventata quella parola lì. Ah, ecco, non esiste, perché no. Letteralmente Teeth Maker è colui che fabbrica i denti. Sì. La fatina, avremmo detto da bambini. Tooth Fairy. La fatina dei dentini. Sì, sì. È un po' per una fatina dei dentini. Ho un amico che ha speso un sacco di tempo a disegnare denti, ma migliaia e migliaia e migliaia di denti. Aveva un motivo, aveva dei progetti, un progetto bellissimo, quando li vedi sono bellissimi, detto così, no? Sì, diciamo che hai degli amici un po' fuori dal comune, ecco, perché io... Sì, vabbè, però sono belli. Un disegnatore di denti. Disegna anche altro, ha avuto un periodo di denti, adesso non è già uscito. Vado Va con bene. Questa cosa. È una specie di Nina Nanna, piccolissima. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Se mi ricordo che Laura è qui dal vivo nel nostro studio. Teeth maker. Questa era Teeth Maker dal vivo e adesso ci sentiremo fra poco per l'ultimo brano, i saluti. Ci ascoltiamo l'ultima selezione che ha fatto Laura dal disco, si intitola Devotion. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa è la Devotion, che Laura ha definito il loro pezzo punk. E in effetti sì, Susan the Banshees qua era un riferimento abbastanza presente, se vogliamo, se sentiva un po' il secondo disco, Join Hands, che era piuttosto cattivo. Cattivo, ecco. Tu non ti ci vedo a farla cattiva. Cioè. Ah, aspetta, sono cotta. No, poi non sono molto cattiva in generale. Però, sì. Vabbè, non so più cosa dire. Sono... Allora, facciamo un attimo di riassunto prima di chiudere questo appuntamento con Mimes of Wine. Qui in rappresentanza della band avevamo Laura, che è la... come si può dire, il fulcro intorno al quale la band gira. E dicevi, a Venezia suonerete in marzo? Sì, 16 marzo. Il 16 marzo a Metri Cubi a Venezia, esatto. Così lo diciamo, facciamo un po' di pubblicità e poi insomma speriamo di vedervi anche qua a Padova, magari o nei dintorni. Volentieri, molto volentieri adesso. E il disco è distribuito dalla Urtovox, quindi è a distribuzione in tutti i negozi, oppure si può trovare immagino anche sulle piattaforme digitali. Sì, iTunes, SoundCloud, tutte queste cose qua. Le solite cose. E il sito della band è mimesofwine.com, quindi vabbè, ci saranno i soliti video, immagino, insomma un po' tutto quello che si cerca quando si cerca il sito di una band, esatto. Chiaramente. E adesso Laura ci lascerà con un ultimo brano. E ringrazio naturalmente Agostino per la puntuale regia. Questa sera avevamo appunto una tastiera, che è una cosa un po' diversa dal solito, ma mi pare che siamo riusciti a far funzionare le cose, il suono in maniera più che decorosa. Ti ringraziamo molto per essere venuta a trovarci e speriamo di riaverti qua magari un'altra volta con qualche altro componente della band per fare una cosa ancora. No, stavolta me li porto tutti, altro che. Tutti, soprattutto con tutti gli strumenti che avete, compreso il contrabbasso, magari mettiamo il contrabbassista in corridoio. Come? Sono belli, però. Sono belli. Noi preferiamo in generale la presenza femminile, ma nostra. Va bene, allora. Va bene. Chiudiamo questo appuntamento con Mimes of Wine, con Mimes of Wine, scusate, con l'ultimo brano che ci canterà Laura dal vivo. Okay. Vai alla postazione, davanti alla tastiera. E il brano è lo stesso con cui abbiamo cominciato la trasmissione. L'abbiamo ascoltato in apertura nella versione del disco con il violoncello, si tratta di Esther, e adesso per augurarvi la buonanotte, per augurarci la buonanotte, Laura ce lo suonerà dal vivo per chiudere questo appuntamento con Rockwave. Grazie ancora di essere stata con noi. Grazie a voi. Stepped in till it's gross.